Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E così una sera arriviamo a Kalav. È una cittadina di montagna, spersa nel nulla. Di turisti qui non ne arrivano molti. Sarà solo una tappa intermedia per spezzare il viaggio, ma decidiamo di uscire dalla guest house e andare in paese per cenare. E qua, per caso, conosciamo Tommy. Sono Cristina Cirla, ho 40 anni, abito a Padova e mi piace viaggiare. Dalla BIT 2012 Fiera di Milano Ro, padiglione 3, stand B11 C14, ingresso porta sud, no, porta est, porta sud, persona di riferimento Elena Ligios, che ringrazio perché mi ha stampato la scheda tecnica, altrimenti io e Bonini non ci saremmo mai arrivati. Sono le 16.07, io sono Matteo Caccia, questa è Radio 24, il programma è sempre quello, voi siete qui. Siamo in realtà tre disperati in questo studio, io, Tiziano Bonini e Pietro Lacorte, che sembriamo dei ragazzini a cui mancano gli adulti e potremmo dire qualsiasi cosa. Ed effettivamente lo abbiamo anche fatto prima, senza sapere che si sentiva fuori. Avevamo il microfono aperto e c'è della gente che ci guarda, li ringrazio. Non so mai come riescano ad arrivare alla BIT il venerdì quando è chiusa. C'è gente che saluta, gente che fa gesti. Allora, la puntata di oggi è dedicata al viaggio, manco a dirlo perché la fantasia non ci fa mai difetto. È dedicata però in particolar modo a quell'aspetto del viaggio che è stato raccontato da Cristina nella puntata di oggi, ed è gli incontri che si fanno durante i viaggi. In realtà la dimostrazione che viaggiare non serve, come dicevamo a Tiziano Bonini, ed è giusto dirlo alla BIT, basta venire alla BIT perché si incontrano un sacco di persone. Vi faccio un esempio. Di solito però queste persone che incontri ti danno dei volantini, più o meno, no? È il caso di Ivan, giusto? Ivan, che è là fuori, che ha un cappello in testa e tutto vestito di nero, e dici: sarà un iettatore. No, invece Ivan organizza questa roba che si chiama The Original History Walks, giusto? Lo organizza in diverse città ed è, dimmi se dico bene, Ivan, cioè praticamente tu vai in giro nei luoghi storici e tu racconti delle storie, giusto? Perfetto, questa è una delle cose che fanno. Poi io e Tiziano siamo stati inondati dai volantini, perché uno dice nel 2012 sarà tutto virtuale, no? No, volantini. Quindi Valle Camonica, Brescia Turismo, Canelli, Città dell'Eleganza e del Gusto, ve le dico tutti adesso. In Umbria, Air Campagnole dell'Umbria, quando cercarle, dove trovarle, come cucinarle. Ma questo è il pezzo forte della BIT, ragazzi, ed è qui vicino. Se c'è qualcuno che ha organizzato sta roba, io li prego di venire qui vicino. Si chiama Aperitò, il rito dell'aperitivo Torino 2012. Dal 21 di giugno al 24 di giugno, la kermesse dedicata alla tendenza più in voga del momento, l'aperitivo. C'è gente che in Veneto sono 40 anni che si ubriaca con l'aperitivo, però a Torino hanno deciso che è un po' la tendenza più in voga del momento. 349-238-6666, è bellissimo avere di fronte a me Tiziano Bonini, che non può parlare, altrimenti entra nel microfono. Gli incontri che avete fatto effettuato durante i vostri viaggi, vi faccio un esempio, perché su Facebook la gente comunque, anche se ha i volantini in mano, continua a scriverci. Kingston, Giamaica 2000. Isabella, io facevo uno stage in un cybercaffè dell'UNDP. Boh, Isabella, se mi scrivi una roba per lungo la capisco anche. La sua mamma di chi? Lavorava all'ufficio postale. Io e Bino, 10 anni, siamo diventati amiche. Un giorno mi dice: ma la mia mamma dice che tutti i bianchi sono cattivi. Tu non sei cattiva. E io le rispondo: e tu cosa ne pensi? Lei era proprio tormentata, poi sorride e mi dice: beh, in effetti tu non sei bianca, tu sei rossa e arancione. Spero che Bino sia ancora così bella. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook è sempre quello, cioè Matteo Caccia, io sono qui, anche alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo. C'erano altre cose che volevo leggervi, che ci hanno dato, ma adesso non le trovo più. Eccolo qua, guarda qua, Raccontami l'Umbria, concorso giornalistico Festival Internazionale. Poi danno queste pubblicazioni che io mi domando, ma... cioè, fuori dalla BIT, sta roba esiste? Nel senso, la gente la legge. Agenzia di viaggi fondata nel 1965, il network dell'informazione turistica. Vabbè, questa è un po', è semplicemente una parte degli incontri che si fanno alla BIT. Uno però, dopo quello ovviamente con Ivan, The Original History Walks, uno dei più interessanti è stato quello con Marzia. Allora, Marzia in realtà non l'ho incontrata perché è venuta qui e mi ha lasciato una cosa, poi è scappata. Poi invece l'ho beccata, forse ancora fuori adesso. No, è andata via. È un DVD che si chiama A la vita. No, aspetta. A con l'H immagino sarà vocativo questo, no? A la vita. O alla vita. vabbè, chi se ne frega. È un documentario e lei mi ha scritto a mano: io e la mia famiglia, Sandro, Edith e Leo, viviamo a Rosbella di Bove, in montagna, a 1000 metri. Gestiamo un bed and breakfast e soprattutto gestiamo uno studio di produzione di documentari di montagna. Organizziamo il festival internazionale del film di montagna più piccolo del mondo. E poi mi scrive, non leggo, Rosbella conta ben 7 abitanti. Noi siamo qui. E che fortuna. Io ringrazio Marzia, non ho ancora fatto in tempo a guardare sul sito che cos'è il festival di Rosbella, ma questo appunto è uno degli incontri che si fanno in questo luogo che è la Beat, che uno arriva e dice mamma mia che postaccio, invece al contrario, Bonini è un bel posto, abbiamo fatto 3 passi prima, abbiamo incontrato tanta di quella gente. Fabrizio D'Alonso, Australia 2001. D'Alonso mi scrive su Facebook, non me lo scrive, non l'ho incontrato alla Beat. Australia 2001, seconda volta, viaggio e non vacanza, 45 giorni in giro in macchina, treni e aerei, il bagaglio culturale di quel viaggio lo porto sempre con me, un episodio. Great Ocean Road, partiti da Melbourne, diretti ad Adelaide, dove ci aspettava il Gun, che però non so cosa sia. Ci fermiamo per una pausa, un piccolo paese, un bar anonimo, il gestore telefona a non so chi e poco dopo si avvicinano 2 vecchiette. Chiedono a mia moglie se possono pranzare con noi. Erano 2 italiani, i loro racconti di una vita di emigranti li ho ancora nella mente. L'emozione del saluto, l'emozione di un incontro che non dimenticherò mai. Tiziano mi scrive una roba che non riesco a capire. Il treno? Puoi parlare, Tiziano? Il Gun treno? Che cos'è il gantreno? Ah, è quella roba che c'è lì. Giusto, perdonatemi, proprio di fronte qui dal vetro dello stand di Radio 24 si vede un trenino che ti porta in giro per la città. No? Ti porta... È il treno che va in Australia. Ah, pare di questo racconto. Grazie, Tiziano, scusami. Niente, senza interfono, io e Tiziano Bonini non abbiamo dialogo. 349-238-6666. Gli incontri che avete effettuato durante i vostri viaggi. Però questo splendido orologio che abbiamo trovato, chiaramente di fortuna, era probabilmente abbandonato da qualche parte, mi dice che è arrivato il momento di raccontare la storia di oggi. È la storia di Cristina e parla degli incontri durante i viaggi. Che cosa sognano le ragazze? Quelle che vedo lavorare ai bordi delle strade in Birmania. Passiamo in auto e le vedo lì, ad asfaltare per non si sa bene chi o cosa, dato che qua di traffico ce n'è proprio poco. Sistemano le pietre più grandi sul fondo, poi spezzano le altre, a mano, sempre più piccole. Stendono il ghiaino e a quel punto arrivano gli uomini con i secchi di catrame bollente. Lo versano e le ragazze lo battono con dei bastoni per uniformarlo. Così, metro dopo metro, chilometro dopo chilometro, sotto il sole o sotto la pioggia, stanno ore accucciate a lavorare. Che cosa sogni se la tua vita è tutta lì, tra la fatica di un lavoro sempre uguale e la notte in una capanna che non sai se sopravviverà al prossimo uragano? Se non hai prospettive, opportunità, se lotti per sopravvivere e poco altro, che cosa sognano le ragazze? Quelle ragazze che vedo con i fazzoletti sul viso a ripararsi dalla polvere. A volte i fazzoletti si abbassano e svelano un filo di rossetto. A volte dal rossetto di queste ragazze birmane spunta un sorriso, rivolto a noi, strani esseri pallidi che hanno deciso di visitare questa terra lontana e sfortunata. Abbasso gli occhi quando mi sorridono. Mi sento in colpa per essere nata dalla parte giusta senza averne alcun merito. Ma una parte di me vorrebbe anche urlare: non sorridere, ribellati. Io ricordo di queste ragazze che erano molto belle e molto sorridenti e paradossalmente anche molto, molto serene, però vedevo sempre fare gli stessi gesti e peraltro anche un lavoro molto pesante fisicamente, e c'era il contrasto appunto tra questa serenità e la monotonia e la durezza del lavoro che io gli vedevo fare. Una sera arriviamo a Kalav. È una cittadina di montagna spersa nel nulla. Ci siamo arrivati attraversando una regione che ricorda molto le colline senesi, abitata da gente con tratti tibetani. Insomma, una sorta di Tibet toscano. Di turisti qui non ne arrivano molti. Di solito preferiscono i voli interni, più veloci e più comodi. C'è giusto qualche appassionato di trekking. Sarà solo una tappa intermedia per spezzare il viaggio, ma decidiamo di uscire dalla guest house e andare in paese per cenare. E qua, per caso, conosciamo Tommy. Tommy è stato un oppositore del regime, uno che ha lottato accanto a lei, la signora, come la chiamano qui, San Suu Kyi. Si è fatto il carcere duro, Tommy, Ma tutto questo noi non lo sappiamo. Lo scopriremo solo una volta tornati in Italia. Il suo aspetto è ben lontano dall'iconografia dell'eroe. È un uomo minuto, dal sorriso timido e dal volto coperto da una ragnatela di rughe. Trasmette molta forza e anche una sottile ironia. Scopriremo che è stato rilasciato dopo tanti anni e nessun processo e ha abbandonato la politica. O forse sta facendo l'unica cosa veramente politica che esista. Si occupa del futuro del suo paese, educandone i figli. Ha costruito una scuola rurale, dove ospita ragazze che vengono dalle regioni a nord e a est. Quella sera Tommy ci parla della sua scuola, dei lavori che stanno facendo per ingrandirla, dei mestieri che cerca di insegnare alle ragazze. Ne parla con l'orgoglio di un padre e ci mostra le loro foto, visi sorridenti e paffuti, disegnati con il Tanaka, occhi vivaci, capelli lucidi e bellissimi. Prima di andarcene gli lascio del denaro. Non salverò il mondo e nemmeno la mia coscienza, ma Tommy saprà sicuramente farne buon uso. Mi lascia con la preghiera di raccontare di loro una volta rientrata in Italia. L'ho promesso. Con lui si è iniziato a chiacchierare, ma in maniera molto, molto naturale, molto tranquilla. Io non mi sono resa conto di avere di fronte quello che poi alla fine era un eroe, perché quando io ho saputo la sua storia, per me lui è un eroe. La mattina dopo ripartiamo da Kalav. Iniziamo a scendere verso il lago Inle, mentre la luce rosa dell'alba rischiara l'orizzonte. Ricomincia il viaggio. Vedremo altre ragazze, agli angoli della strada, spezzare le pietre con le mani. Vedremo ancora i loro sorrisi e i loro rossetti. Ho ancora un peso nel cuore, ma anche una piccola preziosa certezza. L'odio e la ribellione non sono l'unica risposta. Che cosa sognano le ragazze? Sinceramente non lo so, ma ora so che in una piccola città di montagna, grazie al coraggio e all'amore di un uomo minuto, le ragazze, forse, stanno cominciando a sognare. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? Words are very unnecessary. They A me piace viaggiare, ma la pigrizia a volte è più forte della voglia di partire. Spesso preferisco tornare nei posti che conosco, piuttosto che in luoghi sconosciuti in cui c'è tutto da imparare. Non sono mai stato in Birmania, come ha fatto Cristina, e non sono mai stato in Oriente. Ma ammetto che non ne sono particolarmente affascinato. Non so, magari prima o poi ci andrò. Un giorno di molti anni fa, però, ho visto una foto. È una foto che conoscete tutti, l'ha scattata nel 1984 un fotografo che si chiama Steve McCurry, in Pakistan. È il volto di una ragazza con un copricapo rosso e gli occhi di un verde che ti fulmina. Pensateci, l'avete già vista. Si intitola Ragazza afghana al campo profughi di Nasir Bagh, vicino a Peshawar. Ecco, io ho guardato quella foto e quella notte stessa io sognai quella ragazza, sognai quel posto. Il sogno fu talmente reale che pensai davvero di esserci stato e di averla incontrata. Mi sveglio in una casa che non è la mia. Sono avvolto nel sacco a pelo, ho la bocca impastata e sono in Pakistan. Ci sono 15 gradi e nell'aria c'è odore di fritto e di pecora. Ho fame, ma non sopporto più il sapore del riso speziato e voglio bere qualcosa che non sia solo tè al gelsomino. Entro in un supermercato che sembra un bar nel pieno di un trasloco. Voglio mangiare cose che conosco. Basta anche un pezzo di pane del caffè latte. Il ragazzo alla cassa ha addosso una maglietta del Barcellona. E per un attimo io vorrei fosse domenica. Domenica pomeriggio, per essere allo stadio e guardarmi una partita. Il ragazzo con la maglia del Barcellona sorride nell'inglese puntuto che hanno qui. Io pago l'equivalente di 20 centesimi di euro per mezzo litro di latte, per dei biscotti che sembrano dei tarallucci e un succo di arancia. E poi esco a cercarmi un posto dove fare colazione. Mi siedo a terra su un marciapiede di fronte a una strada non troppo trafficata, accanto a un gruppo di uomini in abito afghano. Peshawar è al confine con l'Afghanistan e qui si mischiano i tratti somatici, le abitudini, il cibo. Faccio colazione mentre alcune persone che mi passano davanti in motorino mi salutano. E intanto penso che ancora non mi sono abituato a vedere solo uomini per le strade, nei negozi, nelle piazze. Passeggio per il centro della città, o quello che penso sia il centro. Bancarelle di stoffe, di carne di pollo, di spezie e di tè. Tè già pronto e caldo da bere, a gambe incrociate. È mezzogiorno, inizia a fare caldo. Una goccia di sudore mi si stacca dall'ascella e la sento infilarsi nella manica del pile. Rimango in canottiera. A confronto con gli uomini intorno a me io sembro un senza tetto, mentre loro sono tutti elegantissimi, nei loro savoir camise, l'abito tipico, quello con pantaloni e camicia lunga di cotone, bianchi o beige. Mi torna in mente la frase di un'amica che faceva la sarta e che diceva: solo le persone molto ricche e quelle molto povere sono eleganti. Gli altri imitano. Passa un carretto trainato da un mulo. Un anziano lo guida e di fianco a lui c'è una bambina. È la prima donna che vedo oggi. Ha un velo rosso in testa. Si gira e per un attimo mi guarda. Ha la pelle scura, gli occhi verdi. Di un verde innaturale, quasi spaventoso. Ha il viso serissimo. Così serio che sembra impaurito. Così impaurito che fa quasi paura. Io continuo a guardarla. Lei distoglie lo sguardo. Ho la sensazione di averla già vista da qualche parte, ma non so dove. Mi è venuta fame. Nell'aria c'è odore di carne arrosto. Per uno che non viaggia particolarmente tanto come il sottoscritto e che però frequenta tanto la Beat, nel senso che in 2 anni ne ho fatte 2, quindi direi che la frequenta, la domanda è sempre: come sceglie una persona il luogo in cui va in vacanza o a fare il viaggio, o mai dire vacanza per uno che fa un viaggio, perdonatemi, come sceglie un luogo per il luogo per la destinazione del viaggio, soprattutto se quel luogo è un luogo che si chiama Birmania, e quindi preferisco chiederlo direttamente a lei. Pronto Cristina? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Sai che sono un po' commossa dopo aver sentito leggere il mio racconto. Guarda, ero qua, scusa, con Maurizio, che è l'altro, insomma, il mio compagno, ed era il mio compagno di viaggio. Per un attimo, ho temuto aveste fatto un gruppo di ascolto, Cristina. Cioè, vi siete riuniti lì per ascoltare tutti il racconto, o è il tuo compagno di vita? Non ho capito. No, è il mio compagno di vita ed è stato il mio compagno di viaggio in Birmania. E come avete scelto la Birmania, Cristina? Perché? Ma io, al contrario tuo, sono molto attratta dall'Oriente, o meglio, non lo sono mai stata. Poi a un certo punto ho letto un libro che mi ha aperto uno sguardo sull'India, dove peraltro non sono ancora stata, e da questa lettura poi ho iniziato ad aver voglia d'Oriente. Cioè, quindi tu hai letto un libro sull'India, però non sei andata in India, sei andata in Birmania. Ho letto un libro sull'India, ho iniziato ad andare in Oriente, e si chiama Il Dio delle piccole cose. Ok. Okay. Ed è un libro appunto ambientato in India, e non so perché questo libro mi ha fatto venire voglia di India, di Oriente in generale, ma anche la strana sensazione che il giorno in cui andrò in India un percorso sarà finito, e siccome io non voglio concludere questo percorso... Ok, te la tieni per la fine. Senti, mi dici cos'è il Tanaka? Il tanaka è una pasta biancastra ricavata da una radice, da un vegetale che ora non ricordo, che loro mettono, le donne e i bambini, mettono sulle guance e sul naso come protezione dal sole, ma poi hanno preso l'abitudine di fare anche delle decorazioni, per cui non è solo una cosa che si stende come una crema, viene decorato ed è molto bello. Se recuperi delle foto su internet vedrai, è meraviglioso da vedere. Senti Cristina, invece parliamo dell'incontro, visto che questo è il cuore del tuo racconto. Tommy, il fatto che tu dici che l'avete incontrato una sera, ci avete parlato, avete capito che questa è una persona interessante, però la sua vera storia tu l'hai scoperta dopo, giusto? Come l'hai scoperta? Io l'ho scoperta su internet. Io avevo letto molte cose prima di andare in Birmania e evidentemente non avevo letto tutto, perché poi tornando e guardando su forum che parlano di viaggi, ho trovato casualmente la storia di Tommy e di questa organizzazione di cui lui si occupa. Ricordi il nome, per piacere, Cristina? il nome del sito dove l'ho letto? Sì, no, il nome della sua associazione, della scuola. Allora, io in questo momento non me lo ricordo, qualcosa tipo Association of Rural Development Birmania. Ok. Però se tu guardi su una famosissima guida di viaggi di cui immagino che non posso dire il nome, lo trovo. Va bene. Cristina, senti, ti devo purtroppo salutare. Dimmi però qual è il prossimo viaggio? Allora, ho due viaggi in progetto, la Cina in primavera e quest'estate vado alle Olimpiadi di Londra, ho 5 biglietti per 5 gare, insomma, diciamo, in odore di medaglia per l'Italia. Ok, allora ti ringrazio e fai buon viaggio, Cristina. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Daniele scrive: un incontro casuale sulla ciclabile del Mincio da Mantova a Peschiera con un vecchio signore che una volta andato in pensione aveva deciso di girare tutta l'Italia in bici e a piedi. Un incontro breve ma che mi ha arricchito. Olè! Voi siete qui. E nella foto in cui si trova Cristina, che faccio vedere anche a tutti quelli fuori, per la prima volta in diretta potete vederla se vi interessa. Ecco, c'è questo ragazzo col cappotto nero e la grande. Poi mi dici come ti chiami, giusto così per... Davide. Anche Davide sta guardando la foto e Cristina è praticamente appoggiata a un leone. No, è sotto un leone, che è una statua però. Ecco, però Margherita me l'ha stampata in bianco e nero, quindi non è che faccia... Adesso ditemi voi se riuscite a capire che statua è questa. Forse di bronzo. Alle sue spalle c'è scritto Little India. Dall'altra parte Guy in Japan, quindi non si capisce dove potrebbe essere, tipo a una borsa internazionale del turismo, forse dell'Oriente. Paolino, ringrazio anche Paolo Corleoni che è in studio in via Monterosa mentre Pietro Lacorte è qui con noi, e ringrazio però anche Margherita Ina che, oltre a continuare a scrivere su Twitter quello che facciamo, ed è la donna più sudata della terra da quando deve seguire il live blog, sì, suda tantissimo per scrivere su Twitter perché non lo sapeva usare prima, allora va nel panico, che ha scritto però che la società di Tommy, cioè il protagonista della storia di Cristina, si chiama Rural Development Society Calab, Southern State, Myanmar, vabbè, la Birmania. Ringrazio anche chi ci tiene sempre a dire: Matteo, aggiornati, non si chiama più Birmania, si chiama Myanmar. Però il racconto era scritto così. Io, tra gli altri, ho incontrato, a proposito di incontri di viaggio, un compagno di liceo per le strade di Xi'an, che credo si dica Xi'an, che è in Cina, e un compagno di master che non vedevo da 15 anni su un aereo per Buenos Aires. E ogni volta penso a quante altre persone ho incrociato, magari non ho notato. Vabbè, questo, come dire, grazie per avercelo detto, però insomma un po' tutti potremmo pensare a quante persone abbiamo incontrato, tipo quel signore che è passato, che guardava, magari chissà quante volte l'ho incontrato. Nicola, Nepal 2001, finito il trek dell'Annapurna, io e il mio socio ci fermiamo qualche giorno a Dampus, bellissimo villaggio da cui sembra di poter toccare il Macha Puchare. Ragazzi, però una roba che io sappia leggere, scrivetemela. Sembra di poter toccare questa montagna con un dito, e lì conosciamo una delle coppie più buffamente assortite che mi sia mai capitato di incontrare in viaggio. Un francese di 39 anni circa, che arrivava lì dopo 6 mesi di Thailandia e che parlava un inglese con un accento che solo i francesi sanno avere, e uno svizzero cambogiano di 25 anni, super sorridente, che fumava come una ciminiera e faceva giochi con le carte che neanche Tony Binarelli. Abbiamo passato 2 giorni così, in una specie di bolla dell'assurdo, a vedere trucchi con le carte, parlare, mangiare, passare del tempo assieme, e poi ci siamo persi, come succede quasi sempre. Nicola è la persona che già ci ha scritto un racconto che parlava, se non ricordo male, dei mondiali visti in Pakistan, e Nicola ha omesso ovviamente che oltre a giocare a carte, parlare, mangiare, si fumavano evidentemente l'impossibile trovandosi in Nepal nel 2001. Sono le 16:39:10, io sono veramente soggiogato dalla bellezza di questo orologio che probabilmente Elena Ligios ha portato a casa sua, immagino, perché non se ne trovano nemmeno più in commercio di orologi così, della Oregon Scientific, o forse è tuo, Pietro, è tuo. 349-238-6666, visto che qualcuno sul profilo Facebook del programma continua a postare gli incontri di viaggio, continuate a farlo. Ringrazio anche Chiara che ha pubblicato la foto di cui vi ho parlato nel racconto, che è la foto di Steve McCurry della ragazza in Pakistan. 349-238-6666. Voglio però raccontarvi invece un'altra storia, una mail che mi è arrivata qualche giorno fa, e che è un racconto di viaggio ma che non è per niente esotico. È ambientato a Venezia ed è organizzato dal Dopo Lavoro Aziendale. Caro Matteo, il mio non è il racconto di un viaggio esotico, È semplicemente il ricordo di una gita di pochi giorni. Ricordo che però mi scalda il cuore a distanza di anni. 4 giorni a Venezia, organizzati dal dopolavoro aziendale. Per me in realtà fu un'occasione per accompagnare la mamma e la zia, due sorelle che la vita aveva indirizzato a destini diversi e alle quali non aveva mai dato opportunità di condividere momenti di viaggio, di svago e di divertimento. Erano le più anziane della comitiva. Avevo avvisato gli organizzatori e loro gentilmente si prodigarono per riservare alle sorelle un trattamento speciale. Primi posti in pullman, la migliore camera in albergo e ogni possibile gentilezza. Arrivati in hotel, ci assegnarono le stanze. La loro era grande, con terrazzo e salottino privato. Alla vista di tutto quel lusso, la zia, forte delle precedenti esperienze di gite parrocchiali, sentenziò: «Ma no, abbiamo pagato troppo poco per tanto lusso». Al mattino del primo giorno di permanenza entrai in camera loro per vedere se erano pronte per visitare Venezia e trovai la camera perfettamente in ordine, con il letto rifatto. Allora chiesi: «Ma vi hanno già rifatto la stanza?» «No», risposero loro, «abbiamo fatto tutto noi. Vedi, è scritto qui: si prega di rifare la camera», disse la mamma mostrandomi il cartello appeso alla porta. Nel prenderlo in mano lo voltò e lesse: «Si prega di non disturbare». Ed esterrefata esclamò: «Oddio, noi abbiamo chiacchierato tutta la notte». Dopo averle tranquillizzate e avere spiegato loro a cosa serviva quel cartello, mi seguirono, serene, e trotterellarono dietro di me come ragazzine per 3 giorni. Non ci fu angolo di Venezia che non videro. Ogni proposta la accoglievano con entusiasmo. Entusiasmo che non faceva nemmeno sentire la stanchezza. Stanchezza che invece piombò loro addosso al ritorno. Per una settimana stese sul divano, spossate, ma felici di raccontare a tutti la loro bella gita. Dina Dorato, Odalengo Piccolo, Alessandria. And you said you didn't care about distance, that being miles apart didn't make any difference. Well, I'd buy new shoes for my daughter, a new house for my mom, but you know I'd rather walk than run. Bene, adesso direi che ha senso dare di nuovo le indicazioni. B2012, Fiera Milano, Ro, Padiglione 3, Stand B11, C14, vi leggo proprio tutto. Ingresso Porta Est, Porta Sud, contatti Irene Aligio, Sostes, 3 Hostes, allestimento cabina radio, materiale in distribuzione, palinsesti e gadget, me l'ha stampata. E quindi direi che era il caso di leggerlo, giusto? Elena, non la vedo. Però continuo a ringraziare Elena Aligio, che fa finta di fare del marketing con della gente là fuori, mentre ci ha fornito chiaramente questo splendido orologio Oregon Scientific. Vi ricordo che da domani potete venire alla BIT, perché è aperta al pubblico, e Radio 24 è qui con, posso dire, i protagonisti. Non volevo usare questa parola, ma l'ho detta, con insomma, con diversi programmi che saranno in diretta qui dallo stand di Radio 24. Nicola mi scrive: grazie per il vostro programma, mi fate scoprire le parti più nascoste del mio cervello. Nicola, ho la sensazione che non vorrei starci in quelle parti nascoste del tuo cervello. Spero che tu trovi magari un altro modo anche per scoprirlo. Ringrazio anche Pietro Lacorte, che mi ricorda che l'orologio non è di Elena Ligio, ma è di Davide Ciocio, che l'ha portata evidentemente dalla cantina di casa sua. La storia di oggi era la storia di Cristina, parlava di incontri di viaggio. Quella di lunedì era invece è la storia di Massimo e parla di carognate. La professoressa Francheo è sui 40, stupenda, altera, bellissima, algida, capelli neri cotonati come un leone, cattiva come una merda. Siamo tutti mezzi innamorati e del tutto terrorizzati da lei. È un po' come amare il proprio boia.